Capitolo 13. Ah, quando saprà cosa vuol dire essere vecchie e ammalate come me, allora sarà più comprensiva, piagnucolò la signora Gibson. Non creda che manchi di comprensione nei suoi confronti, signora Gibson, disse Anna, che dopo mezz'ora di inutili tentativi avrebbe volentieri strozzato la signora Gibson. Solo lo sguardo implorante di Pauline le impediva di gettare la spugna e andarsene a casa. Le assicuro che non sarà né sola né trascurata. Resterò qui io tutto il giorno e farò in modo che non le manchi niente. Oh, lo so che non servo a nessuno, sbottò la signora Gibson. Non è il caso che lei insista su questo punto, signorina Shirley. Sono pronta ad andarmene in qualunque momento. Allora Pauline potrà scorrazzare come le pare e piace. Qui non ci sarò più io a sentirmi sola e trascurata. I giovani d'oggi non hanno coscienza. Banderuole, ecco cosa sono. Anna non comprendeva se la banderuola senza coscienza fosse riferita a lei o a Pauline, ma sparò l'ultima cartuccia. Beh, signora Gibson, ci saranno delle chiacchiere se Pauline non andrà alle nozze d'argento della cugina. Chiacchiere? Disse seccamente la signora Gibson. E perché? Cara signora Gibson, Dio mi perdoni l'aggettivo, pensò Anna, nella sua lunga vita lei avrà certamente conosciuto l'opera delle lingue lunghe. Non è il caso che lei mi ricordi la mia età, disse con irritazione la signora Gibson. E non c'è bisogno che mi si dica che in questo mondo la critica impera, lo so bene, fin troppo bene. E non c'è nemmeno bisogno che mi si dica che questa città è piena di lingue velenose. Forse che non me li immagino quando sparlano di me e dicono che sono una vecchia tiranna? Non sono certo io a impedire a Pauline di andare. Non l'ho lasciata decidere secondo coscienza? Saranno ben pochi a crederci, disse Anna con contenuta tristezza. La signora Gibson succhiò rabbiosamente una caramella di menta per un paio di minuti, poi disse: Ho saputo che a White Sands ci sono gli orecchioni. Ma sai bene che gli orecchioni io li ho già fatti. C'è chi li prende due volte, e tu, Pauline, saresti proprio il tipo da prenderli due volte. Ti sei sempre presa tutto. Quante notti ho fatto in piedi, credendo che non saresti arrivata al mattino. Eh già, i sacrifici di una madre non li ricorda nessuno. E poi come ci arriveresti a White Sands? Non prendi il treno da anni? E poi non ci sono treni per il ritorno il sabato sera. Potrebbe andare con il treno del sabato mattina, disse Anna. E sono certa che il signor James Gregor sarà lieto di riportarla a casa. Non mi è mai piaciuto Jim Gregor. Sua madre era una Tarbush. Lui va venerdì con il carrozzino a due posti, altrimenti potrebbe portare anche sua figlia, ma il viaggio in treno andrà benissimo, signora Gibson. Si sale a Summerside e si scende a White Sands, non c'è da cambiare. Chissà cosa c'è dietro, disse sospettosamente la signora Gibson. Perché ci tiene tanto che Pauline vada, signorina Shirley? Me lo dica. Anna sorrise, affrontando lo sguardo degli occhietti indagatori. Perché, signora Gibson, Pauline è una brava figlia e anche lei, come tutti, ha bisogno di una giornata di svago. Poche persone sapevano resistere al sorriso di Anna. Quel sorriso, o il timore delle chiacchiere, convinsero la signora Gibson. Immagino che a nessuno venga in mente che anch'io gradirei una giornata lontana dalla sedia a rotelle, se solo fosse possibile, ma non lo è. Mi tocca sopportare con pazienza la mia croce. Beh, se proprio deve andare, vada. Ha sempre fatto a modo suo. Se si prende gli orecchioni o la punge qualche insetto velenoso, non date la colpa a me, eh? Io dovrò arrangiarmi. Oh, certo che lei sarà qui, ma non è abituata alle mie esigenze come Pauline. Ma per un giorno posso adattarmi. Altrimenti, vita da vivere ne ho avuta fin d'avanzo, perciò succeda quel che vuol succedere. Non era certo un benevolo consenso, ma pur sempre un consenso. Anna, in un impeto di contentezza per aver raggiunto il suo scopo, fece una cosa che mai avrebbe pensato di poter fare. Si chinò a baciare la guancia incartapecorita della signora Gibson. Grazie, disse. Basta con le moine, disse la signora Gibson. Prenda una mentina. Come potrò mai ringraziarla, signorina Shirley? Disse Pauline più tardi, congedandosi da Anna poco lontano dal cancello, andando serena a White Sands e gustando ogni momento della giornata. Oh, ci può contare, lei non sa che cosa significhi per me, signorina Shirley. Non è solo Luisa che voglio vedere. La casa dei Lackley, quella vicino alla sua, è in vendita e volevo vederla ancora una volta prima che la prendessero degli estranei. Mary Lackley Ora è sposata con Howard Fleming e vive nell'Ovest. Era la mia più cara amica quando ero ragazza. Eravamo come sorelle. Ero molto spesso da Ilakli e ci stavo benone. Quante volte ho sognato di tornarci. Ma la mamma dice che sono troppo vecchia per sognare. Lo crede anche lei, signorina Shirley? Non si è mai troppo vecchi per sognare. E i sogni comunque non invecchiano mai. Mi fa piacere sentirglielo dire. Oh, signorina Shirley, se penso che rivedrò il golfo. Sono 15 anni che non lo vedo. La baia di qui è bella, ma non è il golfo. Mi sembra di volare e devo tutto a lei. La mamma mi lascia andare perché lei le è simpatica. Lei mi ha reso felice, lei rende sempre la gente felice. Signorina Shirley, quando lei entra in una camera, tutti diventano più felici. Oh, è il più bel complimento che abbia mai ricevuto, Pauline. Un'altra cosa, signorina Shirley, io non ho altro da mettermi se non il vecchio abito di taffeta nero. È un po' triste trattandosi di nozze, vero? E poi mi è largo perché sono dimagrita, vede, sono 6 anni che ce l'ho. Dobbiamo cercare di convincere sua madre a prenderle un abito nuovo, disse Anna fiduciosa. Ma fu un'impresa superiore alle sue forze. La signora Gibson fu inflessibile. L'abito di taffeta nero di Pauline andava più che bene per le nozze d'argento di Louisa Hamilton. L'ho pagato $2 al metro 6 anni fa e 3 li ho dati a Jane Sharp per la fattura. Jane era una brava sarta, sua madre era una Smiley. E da quando in qua Pauline Gibson si parla di abiti chiari? Si figuri, signorina Shirley, andrebbe vestita di rosso da capo a piedi, se glielo permettessi. Non vede l'ora che muoio per poterlo fare, eh? Beh, Pauline, presto toglierò il disturbo. Allora potrai vestirti di tutti i colori dell'arcobaleno, ma finché io sarò viva, andrai in giro vestita come si deve. E cos'ha che non va il cappellino? Comunque ormai hai l'età per portare la cuffia. La povera Pauline era terrorizzata dall'idea di dover indossare la cuffia. Piuttosto avrebbe portato il suo vecchio cappellino per tutta la vita. Cercherò di essere felice e di dimenticare i miei abiti, disse ad Anna quando andarono in giardino per raccogliere un bouquet di garofanini e narcisi bianchi per le vedove. Ho un'idea, disse Anna guardandosi attorno con circospezione per accertarsi che la signora Gibson, di guardia alla finestra del soggiorno, non potesse udirla. Ricorda quel mio abito di popelin grigio argento? Glielo presterò per la cerimonia. Per la sorpresa, Pauline mollò il cestino, che rovesciò ai piedi di Anna una cascata di corolle bianche e rosa. Oh, no, non potrei mai, la mamma non me lo permetterebbe. Sua madre non ne saprà niente. Mi ascolti, sabato mattina lo indosserà sotto l'abito di taffeta nero. Penso che le vada bene, è un po' lungo, ma domani ci farò qualche balza. Ora le balze sono di moda. È senza colletto e ha le maniche corte, perciò nessuno si accorgerà di niente. Appena arrivata a Gull Cove, si toglierà l'abito di taffetà. Alla fine della giornata può lasciare il mio abito a Gull Cove e io lo ritirerò la prossima volta che andrò a casa per la domenica. Ma non sarà troppo giovanile per me? Niente affatto, il grigio va bene per tutte le età. Lei crede che faccia bene a ingannare la mamma? Chiese Pauline perplessa. In questo caso sì, disse Anna spudoratamente. Pauline, lei sa meglio di me che non si può indossare un abito nero a un matrimonio. Potrebbe portare sfortuna alla sposa. Oh, non è proprio nelle mie intenzioni. E poi non farei alcun torto alla mamma. Spero che passi bene la giornata di sabato. Ho paura che non mangi niente se non ci sono io. Lo ha fatto quando sono andata al funerale della cugina Matilde. Me l'ha detto la signorina Prouty che le ha tenuto compagnia quel giorno. Era tanto irritata per la morte della cugina Matilde, la mamma intendo. Oh, mangerà, ci penserò io. So che lei sa come prenderla, ammise Pauline, e non dimenticherà di darle le medicine alle ore stabilite, vero? Ma tutto sommato forse è meglio che non vada. Beh, hai avuto il tempo di prenderne 40 di bouquet, la rimproverò da dentro la signora Gibson. Non so che cosa se ne facciano le vedove dei tuoi fiori. Ce n'hanno un mucchio dei loro. Fiori. Potrei aspettarne per un bel pezzo se fosse per Rebecca Dew. Muoio dalla sete, ma già io non conto niente, eh? Venerdì sera Pauline telefonò ad Anna tutta agitata. Aveva il mal di gola. La signorina Shirley pensava che potesse trattarsi di orecchioni. Anna andò subito a calmarla, portando l'abito di popelin grigio avvolto in carta da pacchi. Lo nascose tra i rami del lilà e più tardi, quella stessa sera, Pauline, in un bagno di sudore freddo, riuscì a portarlo di soppiatto nella cameretta al piano di sopra, dove teneva gli abiti e si vestiva, ma dove non le era concesso di dormire. Il sotterfugio dell'abito le rimordeva un po' la coscienza. Forse il mal di gola era una punizione per l'inganno. Ma non poteva assolutamente andare alle nozze d'argento di Luisa con quell'orribile abito di taffeta nero. Sabato mattina Anna si recò di buon'ora a casa Gibson. Era allegra e nella sua forma migliore, come sempre nelle splendide mattinate estive. Sembrava splendere a sua volta avanzando nell'aria dorata con la grazia di una figura da vaso greco. Anche la stanza più tetra tornava a splendere e a vivere con la sua presenza. Lei cammina come se fosse padrona della terra, commentò acidamente la signora Gibson. Ma io mi sento padrona della terra, disse Anna allegra. Ah, si vede che è ancora giovane, disse la signora Gibson con sufficienza. Non nego il mio cuore alla gioia, citò Anna. Lo afferma la Bibbia, signora Gibson. L'uomo è nato per soffrire come le faville per salire in alto, ribatté la signora Gibson. Anche questo è certo ed è nella Bibbia. La signora Gibson, fiera di aver contraddetto con la sua battuta la signorina Shirley, laureata in lettere, incominciò la giornata con discreto buon umore. Non sono solita fare tanti complimenti io, signorina Shirley, ma quel suo cappellino con il fiore azzurro le sta piuttosto bene. Così? I suoi capelli sembrano meno rossi, mi pare. Non trovi che sia una ragazza molto fresca, Pauline? Non vorresti anche tu essere una ragazza fresca, Pauline? Ma in quel momento Pauline era troppo emozionata per voler essere altri che se stessa. Anna salì in camera con lei per aiutarla a vestirsi. Oh, è meraviglioso pensare a tutte le cose belle che mi attendono oggi, signorina Shirley. Ora la gola va meglio e la mamma è proprio di buon umore. Non si direbbe, ma io so che è così, perché parla, anche se non risparmia le critiche. Se fosse furibonda o seccata, terrebbe il broncio. Ho pelato le patate, la carne è in ghiacciaia e il budino bianco mangiare della mamma è in cantina. C'è pollo in scatola per la cena e pan di Spagna in dispensa. Sono sulle spine perché temo che la mamma cambi ancora idea, sarebbe un colpo troppo grosso. Oh, signorina Shirley, crede davvero che io debba indossare quell'abito grigio? Se lo metta, disse Anna con il tono dell'insegnante severa. Polino obbedì e d'incanto si trasformò. L'abito grigio le andava a pennello. Era un modello senza colletto, con maniche corte, abbellite da ornamenti di fine pizzo. Dopo che Anna l'ebbe pettinata, Pauline stentò a riconoscersi. Oh, signorina Shirley, è un peccato nasconderlo sotto quell'orribile abito di taffeta nero. Ma fu costretta a farlo. L'abito di taffeta nero copriva tutto alla perfezione. Poi fu la volta del vecchio cappellino. Ma sarebbe sparito anche quello all'arrivo a casa di Luisa. E delle scarpe nuove. Già, la signora Gibson aveva permesso a Pauline di acquistare un paio di scarpe, anche se aveva giudicato i tacchi scandalosamente alti. Tutti si meraviglieranno di vedermi partire in treno da sola. Spero che non pensino che c'è qualche morto. Non vorrei che le nozze d'argento di Luisa venissero in qualunque modo accostate al pensiero della morte. Oh, profumo, signorina Shirley. Fiore di melo, non è incantevole? Solo un'idea, da distinzione, secondo me. La mamma non vuole che ne compri, signorina Shirley. Ricordi di dar da mangiare al cane, la prego. Ho lasciato le ossa nella dispensa in un piatto coperto. Spero tanto, disse con voce ridotta a un timido sussurro, che non faccia brutti lavori in casa. Prima di uscire, Pauline dovette sottoporsi all'ispezione materna. L'emozione per la giornata che l'attendeva e il senso di colpa per l'abito di Popelin concorrevano a darle un insolito rossore. La signora Gibson la osservò con aria critica. Ah, ci siamo messi in gingheri. Quasi che la sposa fossi tu. Troppo colore sul viso. La gente crederà che ti sei dipinta. L'hai per caso fatto? Oh no, ma no, con tono inorridito. Comportati come si deve. E quando ti siedi, incrocia le caviglie. Sta attenta alle correnti e non parlare troppo. Va bene, ma promise Pauline solennemente, lanciando un'occhiata impaziente al pendolo. Manderò a Luisa una bottiglia del mio vino alla salsapariglia, quello per i brindisi. Luisa non mi è mai stata granché simpatica, ma sua madre era una Tuckberry. Bada di riportare la bottiglia e non farti rifilare un gattino. Luisa rifila sempre gattini a tutti. Va bene, mamma. Sei sicura di non aver lasciato il sapone nell'acqua? Sicurissima, mamma. Con un altro sguardo angosciato al pendolo. I lacci delle scarpe sono ben stretti? Sì, mamma. Hai un odore da persona poco rispettabile. Ti sei fatta il bagno nel profumo? Oh no, mamma cara, solo poche gocce, pochissime. Se dico hai fatto il bagno, intendo dire il bagno. Non hai per caso uno strappo sotto la manica? Oh no, ma fammi vedere, con tono inesorabile. Polina era terrorizzata. E se alzando le braccia si fosse vista la gonna dell'abito grigio? Bene, puoi andare. Poi, con un lungo sospiro, se non sarò più qui quando ritorni, ricorda che voglio essere sepolta con lo scialle di pino e le pantofole di raso nero. E fammi arricciare i capelli. Stai forse peggio del solito, ma? Il vestito di Popelin aveva reso molto sensibile la coscienza di Pauline. Allora non vado. E così avresti comprato le scarpe nuove per niente, eh? Certo che vai. E bada di non scendere a cavalcioni dalla ringhiera. Anche la pazienza di Pauline aveva un limite. Ma mamma, non lo farei mai. Al matrimonio di Nancy Perry l'hai fatto. Ma sono passati 35 anni. Ora non lo farei di certo. Vai, vai, che cosa sono tutte queste chiacchiere? Vuoi perdere il treno? Pauline andò via e Anna tirò un sospiro di sollievo. Aveva temuto che all'ultimo momento la signora Gibson fosse colta dall'impulso di trattenere Pauline fino alla partenza del treno. Finalmente un po' di pace, disse la signora Gibson. Questa casa è in un tremendo disordine, signorina Shirley. Spero che lei si renda conto che non è sempre così. Pauline ha avuto la testa per aria in questi ultimi giorni. Vuole, per favore, spostare quel vaso un po' a sinistra? No, un po' meno. Ah, quel paralume è storto. Beh, così è appena appena dritto. Ma quella tapparella è un po' più bassa dell'altra, vorrebbe sistemarla? Sfortunatamente Anna impresse alla tapparella una spinta troppo energica, le sfuggì dalle dita e salì in alto con un sibilo. Oh, questa poi, disse la signora Gibson. Anna non sapeva cosa aspettarsi da quella frase, ma risistemò la tapparella con cura. Che ne direbbe se facessi una tazza di tè, signora Gibson? Oh sì, bisogna che prenda qualcosa. Sono sfinita da tutta questa agitazione. Il mio stomaco vuoto protesta, disse con tono patetico la signora Gibson. Lei sa fare un tè decente? Preferirei bere fango piuttosto che il tè di certa gente. Ho imparato a fare il tè da Marilla Cuthbert. Vedrà. Ma prima la porterò sulla veranda, così prenderà un po' di sole. Sono anni che non vado fuori sulla veranda, obiettò la signora Gibson. Oh, oggi è una giornata magnifica, non può farle male. Bisogna proprio che veda il melo selvatico in fiore, e non può vederlo se non va fuori. E il vento viene da sud oggi, così sentirà il profumo di trifoglio del campo di Norman Johnson. Le porterò il tè e lo berremo insieme. Prenderò il ricamo e ce ne staremo sedute a criticare i passanti. Non ci tengo a criticare la gente, disse virtuosamente la signora Gibson. Non è azione da buoni cristiani. Le dispiace dirmi se sono tutti capelli suoi? Oh, dal primo all'ultimo, disse Anna ridendo. Peccato che siano rossi. Ma da un po' di tempo i capelli rossi vanno per la maggiore da queste parti. Mi piace come ride. Il risolino della povera Pauline mi irrita. Beh, se proprio devo andare, andiamo. E se morirò per aver preso freddo, la responsabilità sarà sua, signorina Shirley. Ricordi che ho 80 anni, 80 anni suonati. Anche se Davy Ackman va dicendo in giro per tutta Summerside che ne ho solo 79. Sua madre era una Watt. Gli Watt sono tutti invidiosi. Anna si destreggiò con la sedia a rotelle e dimostrò di avere molta abilità nel disporre i guanciali. Poco dopo portò all'aperto il tè, che ebbe l'approvazione dalla signora Gibson. Sì, si può bere, signorina Shirley. Lo so ben io che per un anno ho dovuto vivere solo di liquidi. Non pensavano che ce l'avrei fatta. A volte credo che sarebbe stato meglio. E quello, il melo per cui andava in visibilio? Oh, sì, non è magnifico così bianco sullo sfondo del cielo azzurro? Ah, non sono un tipo poetico, fu l'unico commento della signora Gibson. Ma si addolcì un poco con 2 tazze di tè e la mattinata trascorse fin quasi all'ora del pranzo. Preparerò tutto e lo porterò qui su un tavolino. Certo che no, signorina Shirley, non voglio diventare lo zimbello di tutti con stramberie del genere. Cosa penserebbe la gente vedendoci mangiare fuori, in pubblico? Non nego che sia piuttosto bello qui fuori, anche se l'odore del trifoglio mi rende irritabile. E la mattinata è passata in un lampo rispetto alle solite, ma nessuno riuscirà mai a farmi mangiare all'aperto. Non sono una zingara. E badi di lavarsi bene le mani prima di cucinare. Oh, la signora Story aspetta gente, a quanto pare. Ha steso ad asciugare sulla corda del bucato tutta la biancheria della camera degli ospiti. Non è vero senso dell'ospitalità, solo voglia di far colpo. Ah, sua madre era una Carrie. Il pranzo approntato da Anna soddisfece persino la signora Gibson. Non credevo che chi scrive per i giornali sapesse cucinare, ma già lei è stata allevata da Marilla Cuthbert. Sua madre era una Johnson. Immagino che Pauline mangerà fino a star male a quelle nozze d'argento. Non sa mai quando deve smettere, proprio come suo padre. L'ho visto ingozzarsi di fragole sapendo che in capo a un'ora si sarebbe piegato in due dai dolori. Le ho mostrato il suo ritratto, signorina Shirley? Beh, vada nella camera degli ospiti e lo porti giù. Lo troverà sotto il letto. E badi di non ficcare il naso nei cassetti. Ma dia un'occhiata sotto il comò per vedere se c'è della polvere accumulata. Non mi fido di Pauline. Ah sì, eccolo qui. Sua madre era una Walker. Al giorno d'oggi uomini così non ce ne sono più. È un'epoca di decadenza, signorina Shirley. Lo diceva anche Omero 800 anni prima di Cristo, disse Anna con un sorriso. Quella gente del Vecchio Testamento blaterava troppo, disse la signora Gibson. Immagino che la sorprenderà sentirmi parlare così, signorina Shirley, ma mio marito aveva vedute molto ampie. So che lei è fidanzata con uno studente di medicina. A quanto sento, per lo più gli studenti di medicina bevono. Per forza, per sopportare la vista della camera di dissezione. Non sposi mai un uomo che beve, signorina Shirley, e nemmeno un uomo che non sa provvedere alle necessità della famiglia. Non si vive di bambagia e chiaro di luna, glielo posso assicurare. Badi di pulire l'acquaio e di risciacquare gli strofinacci. Non sopporto gli strofinacci unti. Ah, credo che debba dare da mangiare al cane. È troppo grasso, ma Pauline lo rimpinza. A volte penso che dovrei liberarmene. Io non lo farei, signora Gibson. Ci sono ancora dei ladri in giro e la casa è isolata, lontana dalle altre. Avete bisogno di protezione. Oh, beh, fate un po' come volete. Non sarò certo io a mettermi a discutere, specialmente da quando ho una strana pulsazione dietro il collo. Credo che mi verrà un infarto. No, ha solo bisogno di un sonnellino. Dopo si sentirà meglio. La coprirò e le abbasserò la sedia. Gradirebbe andare sulla veranda a fare il sonnellino? Oh, dormire in pubblico. Che idee! Ancora peggio che mangiare in pubblico. Lei ha proprio delle strane idee. Mi sistemi qui nel soggiorno, tiri giù le tapparelle e chiuda la porta per tenere lontane le mosche. Credo che anche a lei serva un po' di riposo. Ha sempre tenuto la lingua in movimento. La signora Gibson fece un lungo sonnellino, ma si svegliò di malumore. Non permise ad Anna di portarla di nuovo sulla veranda. Vuole proprio che l'aria della sera mi mandi all'altro mondo? Brontolò, sebbene fossero soltanto le 5. Non c'era nulla che le andasse bene. L'acqua da bere portata ad Anna era troppo fredda, quella portata la seconda volta non lo era abbastanza, e già nessuno badava alle sue esigenze. Dov'era il cane? Nient'altro che brutti lavori era capace di fare. Le faceva male la schiena, le facevano male le ginocchia, le faceva male la testa, le faceva male il petto. Nessuno aveva un briciolo di comprensione, nessuno sapeva quel che lei pativa. La sedia era troppo alta, la sedia era troppo bassa, voleva uno scialle da mettere sulle spalle, una copertina da mettere sulle ginocchia e un cuscino da mettere sotto i piedi. La signorina Shirley era tanto cortese da porre rimedio a quello spiffero. Avrebbe anche gradito una tazza di tè, ma non voleva essere di peso a nessuno, e d'altra parte, presto sarebbe scesa nella tomba. Forse da morta l'avrebbero rimpianta. Sia il giorno lungo, breve, l'ora della sera giunge lieve. Anna dubitò parecchie volte che quell'ora potesse arrivare, ma infine arrivò. Al tramonto del sole, la signora Gibson incominciò a chiedersi perché Pauline non tornasse. Scese il crepuscolo. E Pauline non era ancora rientrata. Calò la sera, sorse la luna e di Pauline nemmeno l'ombra. Lo sapevo, fu il commento lapidario della signora Gibson. Su, via, sa che non può tornare finché non torna il signor Gregor e di solito lui è l'ultimo ad andar via, disse Anna per calmarla. Non vuole che la metta a letto, signora Gibson? È stanca. So che l'ha scombussolata avere in casa un'estranea invece della persona a cui lei è abituata. Un'espressione di ostinazione scavò le rughe che la signora Gibson aveva intorno alla bocca. Non andrò a letto finché quella ragazza non tornerà a casa. Ma se lei ci tiene tanto ad andare, vada pure. Io posso stare da sola. Oh, se è per questo morire da sola. Alle 9:30 la signora Gibson giunse alla conclusione che Jim Gregor non sarebbe tornato a casa fino a lunedì. Si può stare sicuri che Jim Gregor non rimane della stessa idea per 24 ore di seguito. Secondo lui non è bene viaggiare di domenica, neppure per tornare a casa. Fa parte del consiglio d'istituto della sua scuola, vero? Che ne pensa di lui e delle sue idee sull'istruzione? Anna doveva sfogarsi. Dopotutto, quel giorno la signora Gibson aveva messo a dura prova la sua pazienza. Penso che sia un esempio di anacronismo psicologico, rispose in tono serio. La signora Gibson non batté ciglio. Sono d'accordo con lei, disse, ma dopo finse di addormentarsi. Capitolo 14. Erano le 10 quando infine Paulina arrivò. Il colorito roseo del viso e gli occhi sognanti la facevano sembrare più giovane di 10 anni, nonostante avesse di nuovo indossato il vecchio cappellino e l'abito di taffetà. Aveva in mano un bel bouquet che si affrettò a presentare all'immusonita signora sulla sedia a rotelle. La sposa ti ha mandato il bouquet, ma non è meraviglioso? 25 rose bianche. Ah, quante smancerie! Ma certo a nessuno sarà venuto in mente di mandarmi un boccone della torta nuziale. Al giorno d'oggi la gente non ha più il senso della famiglia, ma ai miei tempi. Certo che ci hanno pensato, ne ho una bella fettona qui in borsa. E tutti mi hanno chiesto di te e ti mandano tanti saluti. Si è divertita? Chiese Anna. Pauline si sedette su una sedia perché sapeva che la madre avrebbe trovato da ridire se si fosse seduta in poltrona. Molto, disse prudentemente. C'è stato un bel pranzo di nozze e il signor Freeman, il pastore di Gull Cove, ha sposato di nuovo Louise Maurice. Per me è un sacrilegio. E poi il fotografo ci ha fatto le fotografie. I fiori erano semplicemente meravigliosi, il salotto era un tripudio, come ai funerali. Oh, ma era venuta dall'ovest Mary Lackley. Ora, signora Fleming, sai, ricordi come eravamo amiche e ci chiamavamo Polly e Molly? Quante stupidaggini! Sono stata contenta di rivederla e di parlare dei vecchi tempi. C'era anche la sorella Em con un bimbo piccino che era una delizia. Ne parli come se fosse qualcosa da mangiare, borbottò la signora Gibson. Bambini piccoli ce ne sono tanti e tutti uguali. Oh no, i bambini non sono mai uguali, disse Anna, che stava portando un recipiente d'acqua per le rose della signora Gibson. Ognuno è un miracolo a sé stante. Beh, io ne ho avuti 10 e non ci ho mai visto niente di miracoloso. Pauline, non agitarti sulla sedia, per favore, mi rendi nervosa. Noto che non mi chiedi come ho passato la mia giornata. Dovevo immaginarlo. Lo capisco, anche senza che tu me lo dica, ma mi sembri in ottima forma e di buon umore. Pauline, ancora al settimo cielo per la bella giornata, azzardò un tono di innocente adulazione. Sono certa che sei stata bene con la signorina Shirley. Non male, non male. L'ho lasciata fare a modo suo. Devo ammettere che da molti anni a questa parte non sentivo discorsi tanto interessanti. Non ho ancora il piede nella fossa, come crede certa gente. Grazie al cielo non sono sorda né rimbambita. Beh, la prossima volta vorrai andare sulla luna, immagino. E naturalmente del mio vino alla salsa pariglia non avranno saputo che farsene. Oh, anzi, l'hanno trovato squisito, ma potevi aspettare ancora un po' a dirmelo. Mi hai riportato la bottiglia? O sarebbe troppo aspettarsi che tu non l'abbia dimenticata? La bottiglia si è rotta, balbettò Pauline. Qualcuno l'ha fatta cadere nella dispensa, ma non preoccuparti, ma Luisa me ne ha data un'altra esattamente uguale. Avevo quella bottiglia da quando ho messo su casa. È impossibile che quella di Luisa sia esattamente uguale. Bottiglie così non ne fanno più al giorno d'oggi. Dovresti portarmi un altro scialle, per favore. Non faccio altro che starnutire. Devo essermi buscata un brutto raffreddore. A quanto pare nessuna di voi due ricorda che devo stare lontana dall'aria della sera. Può ritornarmi la neurite? A questo punto capitò a fare un saluto una vicina di casa e Pauline colse l'occasione per accompagnare Anna per un breve tratto. «Buonanotte, signorina Shirley», disse benevolmente la signora Gibson. «Le sono molto grata. Se ci fossero altre persone come lei in questa città sarebbe tanto di guadagnato». Aprì le labbra, un sorriso sdentato e fece cenno ad Anna di accostarsi. «Gli altri dicano quello che vogliono, per me lei è proprio carina», bisbigliò. Pauline e Anna si avviarono lungo la strada. La notte era giovane, l'aria fresca, e Pauline si sbottonò come non aveva osato fare in presenza della madre. «Oh, signorina Shirley, che giornata divina! Come potrò mai ricompensarla? Non sono mai stata tanto felice in vita mia. Vivrò di questo ricordo per anni e anni. È stato divertentissimo essere damigella d'onore per la seconda volta». Il valletto dello sposo era il capitano Isaac Kent. Un tempo era un mio ammiratore. Beh, non proprio, non credo che abbia mai avuto intenzioni serie, ma uscivamo insieme qualche volta. Mi ha fatto due complimenti, ha detto: «Non ho ancora scordato come le stava bene quell'abito bordeaux al matrimonio di Luisa. È straordinario che lo ricordi, vero?» Poi ha detto: «I suoi capelli hanno il colore della melassa brunita». «Non c'è niente di rispettoso in quello che ha detto, vero, signorina Shirley?» «Mi pare proprio di no». Quando tutti sono andati via, Luisa, Molly e io abbiamo cenato insieme. Avevo una gran fame, erano anni che non avevo tanta fame. Che bello poter mangiare di tutto senza sentirmi consigliare quello che può o non può andar bene per il mio stomaco. Dopo cena, io e Mary siamo state nella sua vecchia casa e abbiamo passeggiato nel giardino ricordando i vecchi tempi. Abbiamo visto i lilà piantati da noi stesse tanti anni fa. Abbiamo passato insieme delle belle estati da bambine. Poi al tramonto siamo scese sulla spiaggia e ci siamo sedute su uno scoglio, senza parlare. Giù al porto una sirena suonava ed era un incanto sentire l'aria di mare sul viso e vedere il riflesso delle stelle nell'acqua. Non ricordavo che le sere sul golfo fossero tanto belle. Quando si è fatto buio siamo rientrate. Il signor McGregor si preparava a partire e così, concluse Pauline con una risata, la vecchietta tornò a casa la sera. Vorrei che lei avesse una vita migliore a casa, Pauline. Oh, cara signorina Shirley, ora non mi peserà più, si affrettò a dire Pauline. Povera mamma, dopo tutto ha bisogno di me. È bello essere utile a qualcuno. Sì, era bello essere utile a qualcuno. Anna ci ripensò una volta rientrata nella sua torretta dove Dusty Miller dormiva raggomitolato sul letto dopo aver eluso la sorveglianza di Rebecca Dew e delle vedove. Ripensò a Pauline, che riprendeva di buon grado la sua esistenza di schiava, accompagnata dallo spirito immortale di una giornata felice. «Spero di poter essere sempre utile a qualcuno», disse Anna a Dusty Miller. «Sai, Dusty Miller, è meraviglioso poter donare la felicità agli altri. Aver donato a Pauline questa giornata mi dà un senso di ricchezza. Ma, Dusty Miller, credi forse che finirò per diventare come la signora Adoniram Gibson, anche se vivrò fino a 80 anni? Rispondi, Dusty Miller». Dusty Miller la assicurò del contrario con le sue fusa sonore.